Perfetta notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Non condivido certamente la sua valutazione sulla mia imparzialità, che io ritengo che continua a essere imparziale e arbitro. Grazie. Io mi sono sentito, no, grazie lo dico io, Presidente. Grazie. E io le dico prego se lei dice grazie. Io che cosa altro ho da dirvi, se non mi veniva da pensare, padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, ma... Però sempre in... Siamo già nella crocifissione. A questi punti siamo arrivati, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, siamo al momento della crocifissione, dice Grasso, il Presidente del Senato, avete sentito questo siparietto con Morra dei 5 Stelle, questo tanto per darvi un po' l'atmosfera di una nuova puntata del dibattito sulle riforme al Senato, questo vi dice molto e vi dice che iniziamo un po' con questa atmosfera nel bilancio della politica della settimana, come sempre qui il venerdì, no? Nella seconda parte di Effetto Notte, ce ne saranno di cotte di cose da raccontare, vi ricordate tutto quello che è successo in questi giorni dal dibattito, diciamo la battaglia per la riforma del Senato fino alla polemica, nuova polemica che investe Marino nei confronti del Papa, il ponte sullo stretto di Messina. Anche su tutti questi argomenti questa sera potete esprimere come sempre le vostre opinioni sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia mandando gli sms al 349-238-6666. Molti però sono gli argomenti, anche questa nuova strage che c'è stata in Nigeria firmata dal movimento integralista Boko Haram. La cosa più terribile è che sono state usate come kamikaze 5 bambine, le hanno fatte esplodere e pare che sia un utilizzo sempre più frequente da parte di questi movimenti integralisti, di Boko Haram in particolare. Poi ci occuperemo anche della vicenda di Denise Pipitone, vi ricordate la bambina scomparsa a Mazara del Vallo 11 anni fa, c'è stato il processo d'appello e la sorellastra che era imputata in questo processo è stata assolta anche nel processo d'appello, quindi in secondo grado. Adesso bisognerà vedere la Cassazione, però anche qui si dice che c'è insufficienza di prove, non c'è prova insomma che sia stata lei a rapirla. È una vicenda che va avanti da tanti anni, anche questa, che probabilmente non troverà un colpevole. Poi ci sarà sicuramente lo spazio per il meteo, un po' più grande anche stasera di solito rispetto al venerdì, perché con quello che è successo in Sardegna adesso poi il maltempo sta salendo verso nord, qualcuno se ne sarà già accorto. In ogni caso voi continuate con i vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi. Intanto andiamo a raccontare la giornata. L'iter delle riforme, voto al Senato tra insulti e gestacci sessisti, la maggioranza va avanti ma calano i voti. Nigeria, bambine usate come kamikaze dagli integralisti islamici esplodono e provocano diversi morti. La strage al college, Stati Uniti sotto shock dopo il massacro in Oregon, dall'inizio dell'anno più di una sparatoria al giorno in America. Dieselgate, dopo Volkswagen, negli Stati Uniti si indaga anche su BMW, Chrysler e Mercedes. Roma, ancora una giornata nera per scioperi e cortei, traffico in tilt e un disabile aggredito su un bus. Il caso di Denise Pipitone, la sorellastra Jessica assolta anche nel processo d'appello, la mamma della bimba scomparsa 11 anni fa commenta: non c'è giustizia. Lo studente sfigurato con l'acido testimonia in aula e dice: la mia vita è cambiata, non posso studiare perché non ci vedo quasi più. Maltempo, rientra l'allerta in Sardegna, il ministro Galletti assicura: mai più condoni, le perturbazioni intanto salgono verso nord. Quirinale, Mattarella celebra il decennale della festa dei nonni. E iniziamo quindi dalla battaglia sulle riforme. La maggioranza va avanti nelle votazioni sulla riforma del Senato, anche se perde un po' di numeri. Oggi ancora, come si dice, più bagarre di ieri. È bagarre in aula al Senato per un presunto gesto osceno del senatore verdiniano Lucio Barani nei confronti della senatrice 5 Stelle Barbara Lezzi. Si ferma quindi per qualche ora la votazione sull'articolo 2 del disegno di legge sulle riforme istituzionali per lo scontro che scoppia in aula. Così Lezzi. Il senatore Barani ha detto che noi abbiamo mal interpretato, non ha chiesto scusa. Quando chiederà scusa verranno accettate le scuse, altrimenti qui di Costituzione non si può parlare, Grasso. Non si può fare. Il presidente Pietro Grasso sospende la seduta, convoca l'ufficio di presidenza per lunedì e assicura: il rigore sarà assoluto e io chiedo una collaborazione di tutti i senatori per l'autodisciplina che è stata richiesta e la richiedo anch'io per poter avere il massimo di collaborazione. Intanto la maggioranza supera il primo voto segreto, 160 no, 116 sì e 3 astenuti. Per bocciare l'emendamento a firma Roberto Calderoli della Lega e Loredana De Petris di SEL sulle minoranze linguistiche. La maggioranza si attesta comunque sotto la quota assoluta dei 161. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Poi sulla politica ci torniamo intensamente dopo. Adesso invece spostiamoci all'estero, con attentato in Nigeria. 5 ragazzine che indossavano cinture e giubbotti esplosivi sono saltate in aria nel nord-est della città nigeriana di Maiduguri. La più giovane aveva 9 anni. Secondo le forze di sicurezza citate dalla BBC, i morti sono 14, comprese le bambine, i feriti 39. Gli attentati sono avvenuti vicino a una moschea e questo attacco si imputa al gruppo islamico integralista Boko Haram vicino all'ISIS, che sempre più spesso, vi dicevo, usa ragazze e bambine come kamikaze. Poi ne parleremo anche per capire a che punto sta la lotta dell'esercito nigeriano contro Boko Haram. Intanto anche oggi sono intercorsi contatti diplomatici per quanto riguarda la Siria per la coalizione internazionale contro l'ISIS. A Parigi ci sono stati Stati Uniti insieme a Francia, Germania, Gran Bretagna, Qatar, Arabia Saudita e Turchia. Chiedono alla Russia di concentrare i propri raid in Siria nelle zone controllate dal sedicente califfato. Sapete che ci sono state in questi giorni accuse su obiettivi che non fossero l'ISIS da parte della Russia. Novità del giorno è che ci sarà un prossimo vertice a Ginevra, al tavolo ci sarà anche la Siria di Assad. E poi la strage al college americano di ieri, Stati Uniti sotto shock per il massacro in Oregon, il bilancio definitivo è di 9 morti e di 9 feriti. All'Umpqua Community College a Rosenburg nell'Oregon, lo riferiscono diversi media americani. Dei 9 feriti, 2 sono gravi, in gravi condizioni, ma secondo i medici non sono in pericolo di vita. L'autore responsabile di questa strage, identificato col nome di Chris Harper, 26 anni, aveva numerose armi in casa, lo riferiscono gli investigatori che hanno perquisito l'abitazione dove viveva con la madre. Per compiere questo massacro il killer si è presentato a scuola con 2 pistole, con 3 pistole, anzi un fucile d'assalto. Gli investigatori riferiscono che aveva anche un giubbotto antiproiettile, pensate. E si riapre insomma il dibattito come sempre sulle armi facili negli Stati Uniti. Emerge un dato: dall'inizio dell'anno c'è più di una sparatoria al giorno in America. Somehow this has become routine. The reporting is routine. My response routine, sentite, le sparatorie, dice Obama, sono diventate routine, i miei discorsi sono routine, così ha detto. Siamo tutti responsabili di questa tragedia, aggiunto ribadendo che in America non ci sono leggi sufficienti sul controllo delle armi e che lui non può agire da solo, ci vuole anche l'aiuto dei vari governatori, dei vari stati. Siamo allo scandalo Volkswagen, che forse non è più solo Volkswagen, perché le autorità americane allargano l'inchiesta. Una decisione attesa, considerate le informazioni a disposizione e la natura della truffa. L'Agenzia per la Protezione Ambientale statunitense ha esteso le indagini sulle emissioni truccate delle vetture Volkswagen con motori diesel ad altre case automobilistiche: BMW, Chrysler, General Motors, Land Rover e Mercedes-Benz. A scriverlo il Financial Times, secondo cui i modelli sotto esame sarebbero 28. In Italia, nei confronti di Volkswagen, l'autorità garante della concorrenza e del mercato ha deciso di avviare un procedimento istruttorio. L'ipotesi dell'antitrust, si legge in una nota, riguarda la configurabilità di una pratica commerciale scorretta. Pratica scorretta perché falsata dai dati sulle emissioni, che non corrispondono alle reali emissioni su strada. Quindi i consumatori potrebbero essere stati indotti in errore nelle loro scelte d'acquisto. Insomma, concorrenza sleale, relativa a numerosi modelli del gruppo, venduti tra il 2009 e il 2015. Nel frattempo la Procura di Parigi ha aperto un'inchiesta preliminare per truffa aggravata, mentre la Svizzera ha ordinato il blocco su importazioni e immatricolazioni di tutti i veicoli del gruppo Volkswagen con le motorizzazioni diesel al centro dello scandalo. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E da Volkswagen passiamo a Leni, che è stato prosciolto per le presunte tangenti pagate in Algeria. Eni e i suoi manager non potevano sapere nulla delle presunte tangenti pagate da Saipem in Algeria. Quasi 200 milioni di dollari usati, secondo l'accusa, per corrompere i pubblici ufficiali e ottenere in cambio appalti per 8 miliardi di euro. Così il giudice ha prosciolto l'ex numero uno del cane a 6 zampe, Scaroni, l'ex responsabile per il Sudafrica, Vella, e la stessa società, come ci spiega uno dei legali della difesa, Alberto Moro Visconti. Il giudice ha ritenuto che né Scaroni né Vella avessero responsabilità in questa vicenda. Non sapessero niente di quello che faceva Saipem, per cui li ha assolti e di conseguenza ha assolto anche Leni. Rinviati a giudizio invece gli altri 7 imputati, in gran parte manager Saipem e 2 intermediari locali, e la partecipata di Eni, la quale dimostrerà la sua estraneità, così ha detto, nel processo che inizierà il 2 dicembre. Ha patteggiato invece Tullio Orsi, ex presidente Saipem Algeria. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso a Roma, dove si è vissuta un'altra giornata di caos per lo sciopero dei mezzi pubblici e cortei. Il peggio dovrebbe essere passato, ma quello di oggi è stato comunque un venerdì difficile per la capitale. Da questa mattina, infatti, romani e turisti sono stati costretti a fare i conti con lo sciopero dei mezzi pubblici e con 2 diversi cortei, prima quello degli studenti, poi nel pomeriggio quello di alcuni movimenti di sinistra. Molti i disagi per chi intendeva spostarsi con bus e metro, pesanti anche le ripercussioni sul traffico. La protesta degli autoferrotranvieri, proclamata soltanto dagli autonomi dell'USB, ha comportato la chiusura delle linee A e B della metropolitana e ritardi nelle ferrovie locali. Meno problemi invece per quanto riguarda gli autobus, tutti però più affollati del solito. Lo sciopero si concluderà a fine servizio, ma sarà assicurata la fascia di garanzia fino alle 20. Sull'adesione è guerra di cifre, per il sindacato ha superato il 70%, secondo il prefetto Gabrielli non è invece andata oltre il 30%. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E nella capitale c'è stato anche un nuovo caso di aggressione sui mezzi pubblici. Prima lo hanno offeso dandogli del mangiariso, poi lo hanno colpito ripetutamente con un giornale arrotolato. Non contenti, gli hanno sferrato anche diversi pugni. È successo ieri su di un autobus della capitale. 2 albanesi, Dauti Roland e Moni Edward, di 32 e 33 anni, hanno preso di mira un giovane disabile indiano che si recava a scuola. I 2 hanno colpito anche un amico del ragazzo che era intervenuto in sua difesa. Il pronto intervento delle forze dell'ordine ha permesso la cattura dei balordi. Solo l'ultimo caso di una serie di aggressioni sui mezzi pubblici della capitale. Ora dovranno rispondere di lesioni personali aggravate, di violenza privata e violazione della legge Mancino sull'odio razziale. Intanto, il giudice ha disposto per gli aggressori la misura cautelare dei domiciliari. Carlo Terzano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per la cronaca poi c'è il caso di Denise Pipitone, vi dicevo all'inizio. La sorellastra Jessica è stata assolta anche nel processo d'appello. Oggi la mamma della bimba scomparsa 11 anni fa commenta: non c'è giustizia. Di questo parleremo più tardi, ricostruendo un po' tutta la vicenda, appunto, che dura da 11 anni. Poi sempre per la cronaca, vi ricordate, abbiamo parlato in una delle puntate scorse con l'avvocato del ragazzo che è stato sfregiato con l'acido nella prima udienza. Abbiamo parlato in occasione della prima udienza, c'è stata un'altra udienza oggi e c'era sempre lui a testimoniare. Ha detto: la mia vita è cambiata, ha detto Stefano Savi, non posso studiare perché non ci vedo, ho subito 12 trapianti di pelle dalle indagini, tra l'altro, su Martina Levato e Butcher è emerso che il giovane è stato proprio vittima di uno scambio di persona, l'aveva detto proprio anche qui a Fettonotte il suo avvocato. Per quanto riguarda il maltempo, è finita l'allerta in Sardegna. Il ministro dell'ambiente Gianluca Galletti ha detto: per dichiarare lo stato di calamità naturale bisogna fare un'accurata stima dei danni. E poi ha anche commentato: mai più condoni edilizi in questo paese. Ne abbiamo parlato diffusamente ieri, di quanto in quanto in 40 anni la Sardegna, in particolare Orbia, sia stata territorio di condoni edilizi. Abbiamo visto, dice Galletti, cosa vuol dire costruire male. Questa è una responsabilità storica, ma in tante zone d'Italia si è costruito male e non possiamo più permetterlo. Poi sicuramente sentiremo ampiamente il meteo per capire un po' cosa ci aspetta per questo fine settimana e magari anche ci avventuriamo nella prossima di settimana. Per chiudere, festa dei nonni oggi, la festa nazionale dei nonni, pilastri delle nostre vite. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale una delegazione di nonni e nipoti in occasione appunto del decennale di questa festa nazionale dei nonni. Anche su questo, se volete raccontare dei vostri nonni, potete mandare i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349 238 666. Intanto Clotilde scrive: il Senato mostra plasticamente il renzismo, spero sempre che in questo deserto si alzi una voce. Tra parentesi, Mattarella soffre di laringotracheite. E poi il nostro umorista che si firma Balanzone scrive: al Senato un venerdì grasso a 5 stelle. E poi c'è Luca da Verona: stiamo assistendo alla riforma prostituzionale, ennesimo mercato di senatori che cambiano casacca. Continuate con le vostre riflessioni, ci sentiamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, adesso facciamo un po' il bilancio della politica italiana della settimana e sentiremo anche tante voci, ricreeremo un po' l'atmosfera di questi giorni, appunto dalle polemiche sul ponte dello Stretto di Messina fino alla diatriba, anzi cosa possiamo dire, il nuovo neanche scandalo, insomma anche qui sempre il termine di polemiche in cui è di nuovo coinvolto Marino, che fra l'altro proprio oggi ha detto che ripartirà per gli Stati Uniti. Se c'è una passione per gli Stati Uniti, Marino a volte potrebbe stare un pochino più a casa forse. Comunque vi ricordo prima le notizie più importanti e poi andiamo sulla politica della settimana. Riforme, per restare in ambito politico, vanno avanti tra le polemiche. Abbiamo sentito prima cosa è successo oggi in Senato. Insulti e gesti osceni. Il presidente Grasso dice: l'arbitro sono io. E poi Volkswagen, lo scandalo Dieselgate. Gli Stati Uniti allargano l'indagine ad altri marchi. Nel mirino ci sono modelli di BMW, Chrysler, General Motors, Land Rover e Mercedes. Mosca fa sapere: abbiamo colpito l'ISIS, a proposito dei bombardamenti sulla Siria, e gli Stati Uniti valutano la protezione dei ribelli belli anti-Assad. E poi Draghi che dice che la crescita torna, ma per la Casa Bianca il mondo frena per quanto riguarda l'economia. E poi strage al campus di ieri in Oregon, negli Stati Uniti, rabbia di Obama: qui c'è una sparatoria al mese, dice, da solo non posso cambiare le leggi. Oggi giornata nera per Roma, ancora scioperi nei trasporti. E poi il ragazzo, lo studente aggredito con l'acido, oggi in udienza a Milano ha testimoniato dicendo: non ci vedo quasi più e quindi ho smesso di studiare. Rientra l'allerta maltempo in Sardegna e Galletti assicura: mai più condoni. E speriamo che sia la volta buona. A proposito della volta buona, che piace tanto questa espressione a Renzi, Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Fabrizio. Ciao, buonasera. Tra i tanti argomenti, Fabrizio, naturalmente la riforma del Senato, anche oggi altra puntata di questa battaglia, poi il discorso di Renzi all'ONU, c'è stato l'Assemblea Generale dell'ONU questa settimana, di nuovo redivivo il ponte sullo Stretto di Messina, che mi viene appunto da dire che è più fantomaticamente ricorrente del mostro di Loch Ness e che quindi prima o poi ci si aspetta di vederlo affiorare dal Mar di Sicilia. Poi la nuova polemica che coinvolge Marino, quella col Papa, la diatriba sulla RAI tra i nuovi supposti editi bulgari, e poi Di Maio del Movimento 5 Stelle che ha detto Renzi vuole una televisione a sua immagine. Poi c'è stata anche questa polemica su Vendola che va a 57 anni in pensione. Direi di iniziare, Fabrizio Forché, dalla riforma del Senato, ricreando appunto, diciamo, un po' il clima, ecco, il clima caldo di questi momenti. Sentiamo. Non condivido certamente la sua valutazione sulla mia imparzialità, che io ritengo che continua a essere imparziale e arbitro. Grazie. Io mi sono sentito, no, grazie lo dico io, Presidente. Grazie, e io le dico prego se le dice grazie. Io che cosa altro ho da dirvi, se non mi veniva da pensare: padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, ma... Però sempre in... Siamo già nella crocifissione. E poi questo era proprio di oggi. Calderoli nei giorni scorsi, pochi giorni fa, a proposito del Marchese del Grillo e dei suoi 85 milioni di emendamenti diventati poi 72 milioni, poi ancora un po' ridotti. Tra un po' mi aspetto sempre che al momento del voto spunti la mano del dito di Renzi che va nella buca e vota al posto mio. Quest'oggi, Presidente, io la capisco, rispetto la sua posizione, la ringrazio per le posizioni assunte, ma da quest'oggi vige in quest'Aula il regolamento del Marchese del Grillo, che come tutti sanno in quel momento in cui veniva liberato, mentre invece tutti gli altri venivano arrestati, disse: io sono io e voi non siete un cazzo. Mi scuso per la parola, ma è Alberto Sordi che lo disse. Grazie. Diciamo un clima vivace, insomma. E poi, tanto per non farci mancare niente, ieri Di Maggio del Movimento Conservatori e Riformisti di Fitto, sentiamo cosa dice. Ecco, siccome noi abbiamo vissuto uguale esperienza nel momento in cui abbiamo votato la legge elettorale, che adesso possa accadere che un jihadista della maggioranza venga e faccia esplodere un emendamento, ripeto, forse non sono stato chiaro, che un jihadista della maggioranza il jihadismo è qualcosa che lei conosce bene. Ha ragione, Presidente, è improprio, perché i jihadisti almeno hanno il coraggio di farsi saltare, qui invece fanno saltare gli emendamenti. senatore Di Maggio. Insomma, si mischia anche il jihadismo. Per chiudere questa prima parte, sentirei quello che oggi ha fatto sospendere per una decina di minuti la seduta in Senato, questo battibecco tra Barani, Verdiniano e la Lezzi del Movimento 5 Stelle. Il gesto volgare e scurrile l'ho ricevuto io, sono solo io a poter concedere o no l'accettazione delle scuse da parte del senatore Barani. Il senatore Barani ha fatto un gesto eloquente riferito ad una donna che deve chiedere scusa in nome soprattutto degli altri uomini, presidente Grasso. Che dici, Fabrizio Forché? Diciamo, è la normale dialettica, ecco, interna parlamentare. Dico che per fortuna fa il programma radio e non fa un programma video, perché sennò si sarebbe visto di peggio. Una persona gentile e raffinata come te non avrebbe potuto condurre questa trasmissione. No, insomma, il nostro Parlamento fa di tutto, in questo caso i nostri senatori fanno di tutti per dimostrare agli italiani che poi hanno ragione quando pensano che i politici siano, come dire, la categoria peggiore, cosa che è la cosa più sbagliata del mondo, perché in un qualunque paese la politica è la disciplina più nobile di tutti e i parlamentari dovrebbero essere rispettati perché svolgono un ruolo essenziale, ma purtroppo quando assistiamo a queste scene, quando pensiamo che questi sono i nostri costituenti. Noi stiamo facendo una riforma del Senato che secondo me è una riforma sacrosanta, è una riforma da valutare positivamente, ma quando penso che cammina su queste gambe veramente c'è da preoccuparsi. Caro Fabrizio, tra l'altro c'è da dire che ieri c'è stata l'approvazione dell'articolo 1, sono i due articoli, l'1 e il 2, diciamo, quelli più dibattuti. Oggi si è passati all'articolo 2 con le cose che abbiamo sentito. Leggo proprio adesso che slitta domani il voto sull'emendamento Finocchiaro all'articolo 2 del disegno di legge Boschi, sì, che recepisce l'accordo della maggioranza. Insomma, questo articolo 2 è quello sull'elettività dei nuovi senatori, del nuovo Senato, sì, insomma, sì, no? Dei componenti, sì, del nuovo, sì, Senato. Sì. Però questo politicamente non deve far preoccupare più di tanto. La giornata di oggi, al di là appunto della indecente bagarre che c'è stata, per Renzi, per il governo, per i sostenitori della riforma, è stata una giornata in qualche modo positiva, perché c'è stato alla fine un unico voto segreto, in quest'unico voto segreto la maggioranza a favore della riforma è stata abbastanza ampia. Quindi insomma questo passaggio che era preoccupante per il governo, per la maggioranza, in realtà è andato bene, e domani sull'emendamento Finocchiaro non ci sono problemi, la maggioranza si confermerà. Insomma, la sensazione è che oramai non ci dovrebbero essere più incidenti nel voto sui singoli emendamenti, sui singoli articoli della riforma. Bisogna vedere appunto se in questo clima di bagarre poi in qualche modo l'ostruzionismo finirà per allungare un po' più i tempi rispetto agli obiettivi di Renzi, ma insomma mi sembra che per la maggioranza la strada sia abbastanza in discesa. C'è Luca da Verona, comunque l'avevo letto prima questo messaggio, che dice: stiamo assistendo alla riforma prostituzionale, ennesimo mercato di senatori che cambiano casacca. Probabilmente si riferisce soprattutto a quelli, credo, da Forza Italia in particolare, i cosiddetti verdiniani, no? Questa emorragia. C'è stata questa emorragia dei senatori che per la verità non si sta dimostrando nemmeno strettamente necessaria, perché poi il partito di Renzi in qualche modo sta tenendo, la grande incognita per Renzi era la tenuta del suo partito, e alla fine invece il PD sta votando compatto, quindi insomma la maggioranza è abbastanza ampia. Certo, appunto, passare da De Gasperi e Terracini ai senatori di Verdini, insomma qualche preoccupazione, qualche dubbio, qualche perplessità ci viene. Vedo un altro messaggio al 349-238-6666 di Luca da Torino, poi ci sono gli altri sulla pagina Facebook di Effetto Notte, dice: siamo ormai un paese commissariato, il governo e il Parlamento non hanno diritto di esercizio, il governo è servo della troica, le riforme sono strumentali a ledere lo Stato democratico e a ridurre il peso delle classi più deboli a favore del capitalismo delle multinazionali. Ma adesso passerei al discorso, il primo discorso che Renzi ha tenuto da Presidente del Consiglio, il suo primo in assoluto all'Assemblea Nazionale dell'ONU. Sentiamo giusto questo passaggio che riguarda la questione dell'immigrazione, che è stato un po' il cuore del suo discorso. E penso al mio paese, che su una carta geografica vi appare con la forma di un ponte tra il nord e il sud, un ponte tra l'Europa e l'Africa, un ponte tra l'est e l'ovest, proteso tra il Medio Oriente e i Balcani. Proprio per questa ragione geografica, prima ancora che culturale, L'Italia è da sempre un laboratorio straordinario, attraversato da esperienze di ogni genere. Ed è questa la ragione per la quale siamo stati i primi in Europa a cogliere la dimensione epocale di quello che stava avvenendo nel Mediterraneo. Giusto un commento così sintetico, se vuoi, Fabrizio, poi passiamo al resto. Un discorso... una battuta che sento sollevato, diciamo, la parte del discorso in cui ha parlato giustamente l'italiano, il suo discorso ufficiale, l'abbiamo sentito parlare in inglese in altri momenti di questa visita, e insomma, qualche dubbio in più c'era. È strano che un ambizioso come lui non abbia imparato meglio l'inglese, a un altro si può concedere. Ma lui è ambizioso, è proprio perché è ambizioso, perché lui ha un inglese appunto piuttosto maccheronico, ma non rinuncia a parlarlo in qualunque occasione. Questa, diciamo, è una straordinaria qualità di questo Presidente del Consiglio, cioè supera qualunque timidezza e via spudoratamente, va anche con l'inglese. Ma comunque, insomma, al di là di queste notazioni sull'inglese, insomma, io credo la visita, come spesso accade del resto, i nostri Presidenti del Consiglio negli Stati Uniti vengono sempre accolti favorevolmente. Il discorso all'ONU è stato accolto generalmente favorevolmente. Resta, insomma, l'impressione però di un'Italia che a livello diplomatico, a livello internazionale, sulla questione immigrazione, ma ancora di più sulla questione siriana, sulla questione libica, no, insomma, è piuttosto marginale. Non abbiamo il peso che dovremmo avere, in particolare sulla Libia, per la verità. Però adesso arriva il ponte sullo stretto di Messina. Sentiamo il sottosegretario del Basso De Caro, che cosa ha detto di questa riconsiderazione, ecco, questo è il termine. Sia proprio in questo senso, valutare la opportunità di una riconsiderazione del progetto del ponte sullo stretto come infrastruttura ferroviaria, previa valutazione e analisi rigorosa del rapporto costi-benefici, quale possibile elemento di una strategia di riammagliatura del sistema infrastrutturale del Mezzogiorno. Passo la palla, anzi il ponte, a te, Fabrizio Forché. È un capolavoro, dalla riammagliatura in poi, questo passaggio che hai trasmesso è un capolavoro. È un capolavoro perché ci sottolinea che ci vorrà un accurato studio dei costi e dei benefici. Dopo 30 anni giustamente questo studio non è ancora stato fatto, perché si passa all'innovazione di farlo solo ferroviario questa volta, non anche stradale, per cui è un progetto decisamente nuovo, non tutto è un'altra quello cosa di cui abbiamo parlato, tutta un'altra cosa. Al di là dell'ironia, io credo che il ponte sullo stretto forse questo paese doveva farlo 50 anni fa, un paese normale avrebbe fatto 50 anni fa, perché forse è anche un'infrastruttura che in un paese moderno ci stava, ma insomma, dopo tutto il dibattito che abbiamo visto negli ultimi 30 anni, tornare a proporlo è veramente... Tra l'altro, Fabrizio, ci sono anche tante infrastrutture in Sicilia, proprio a fare le autostrade, no? Ci sono città difficilissime da raggiungere, anche magari a poca distanza. Mi pare che ancora ad Agrigento e in altri posti spesso manchi l'acqua. Insomma, ce ne sarebbero di cose prioritarie da fare. Salerno, Reggio Calabria, ecco, forse ancora da completare. Tra tutte. No? Senti, invece, la polemica tra il Papa e Marino. Il Papa si è lasciato, non so se trascinare questa polemica, e aveva risposto questo giornalista in un modo un po' puntuto, in un modo un po', non so se dire, incattivito, irritato. Sentiamo. Io non ho invitato il sindaco Marino. Chiaro. Io non ho fatto e ho chiesto gli organizzatori, neppure loro lo hanno invitato. Lui è venuto, lui si professa cattolico, è venuto spontaneamente. Ora Marino con la difesa, la sua difesa. Il giornalista italiano quando sale a bordo gli chiede: ma l'ha invitato lei, Marino? Ma se io non sono Santo Padre, ma se me l'avesse fatto a me dopo che avevo preparato un viaggio cui ho parlato di temi epocali, un pochettino avrei detto: non è questo lo scopo del viaggio e della conferenza stampa. Fabrizio Forché, abbiamo ancora un minuto e mezzo per commentare questo e poi anche le polemiche su Renzi, Di Maio, Renzi che vuole la TV a sua immagine e somiglianza. E in questo caso, allora, Marino sicuramente ultimamente non riscuote grandi simpatie, e poi questa sua, diciamo, compulsività verso gli Stati Uniti, i suoi viaggi, che forse qualche volta potrebbe anche rimanere a Roma e dedicarsi a Roma. Però forse il Papa poteva evitare in questo caso di entrare in questa vicenda e sorvolare? Ma evidentemente, al di là della vicenda specifica dell'invito, non l'invito, il fastidio forse un po' c'è stato in Vaticano per la volontà, diciamo, di Marino di cavalcare l'immagine mediatica del Papa, di farla in qualche modo suo, questo sicuramente ha creato irritazione, ma è evidente, voglio dire, tutto questo allude a una tensione più profonda che in questo momento c'è tra le due parti del Tevere. Ora, da cosa deriva questa irritazione? Se sui lavori di preparazione del Giubileo, su magari anche sulla questione dei matrimoni gay, insomma, Marino non è un mistero in questi mesi. Grande sostenitore. Paladino è sostenitore del matrimonio gay, che per quanto insomma questo Papa ha fatto aperture in passato, ma resta un argomento tabù comunque oltre Tevere, per cui credo che ci sono insomma ragioni più profonde che non semplicemente chi ha invitato chi. Imbucato, sì. Senti, proprio abbiamo pochissimo tempo, adesso ti faccio sentire brevissimamente Di Maio e mi dici proprio sinteticamente cosa pensi di questa accusa. Lui ha paura che oggi la TV e oggi il palinsesto di una TV possa fargli perdere consenso. Sono d'accordo su chi dice che lui vorrebbe una TV a sua immagine e somiglianza, ma perché oggi si sente evidentemente debole e perciò attacca. Abbiamo 20 secondi. Sì, mi ha sorpreso la polemica così virulenta da parte della maggioranza, poi in particolare è stato Ansaldi, un parlamentare appunto del PD, l'attacco a Rai 3, violenza Bianca Berlinguer, ma sì, è sorprendente perché sono stati usati toni che effettivamente sono sempre stati rinfacciati a Berlusconi, nel senso di quello che voleva occupare la Rai. Hai dato quell'impressione, quindi è sbagliato al di là del merito, perché poi credo che nelle cifre qualche ragione ce l'hanno anche questi della maggioranza. Però non puoi usare quei toni, non puoi fare quello che, voglio dire, per anni hai accusato Berlusconi di fare. Passa un buon fine settimana, Fabrizio Forché. Grazie. Ciao Fabrizio. Ciao. Ci prendiamo questa pausa di ricreazione, i vostri messaggi a dopo e anche gli altri argomenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, stavo guardando man mano le notizie che arrivano e anche i vostri messaggi. C'è Marco che scrive a proposito, un altro Daniele da Calozzo Corte Lecco, che fa tutta una poesia sui nonni, mi sembra un po' lunga, carina, ma cioè, cerchiamo la sintesi. Marco dice: mai più condoni edilizi, almeno fino al prossimo condono. Oggi l'ha promesso Galletti, ministro dell'ambiente, a proposito di quello che è successo nuovamente in Sardegna. Poi invece sulla questione nonni, c'è un altro messaggio: viva i nonni, se lo stato sociale è latitante ci sono i nonni e a loro grazie tante. Ecco, vabbè, allora riconosciamo naturalmente tutti i meriti, così in rima. Vi ricordo tra poco le notizie più importanti e poi parleremo di questo terribile attentato che c'è stato in Nigeria. L'iter delle riforme, abbiamo appena parlato lungamente, voto al Senato tra insulti e gestacci sessisti, la maggioranza va avanti ma calano i voti. Nigeria, bambine usate come kamikaze dagli integralisti islamici. La strage al college, Stati Uniti sotto shock dopo il massacro in Oregon, dall'inizio dell'anno più di una sparatoria al giorno in America. Dieselgate dopo Volkswagen, negli Stati Uniti si indaga anche su BMW, Chrysler e Mercedes. Roma ancora una giornata nera per scioperi e cortei, traffico in tilt e un disabile aggredito su un bus. Il caso di Denise Pipitone, la sorellastra Jessica assolta anche nel processo d'appello, la mamma di Denise, bimba scomparsa 11 anni fa, commenta: non c'è giustizia, ne parleremo tra poco. E poi maltempo, rientra l'allerta in Sardegna, il ministro Galletti assicura: mai più condoni. Quirinale, Mattarella celebra il decennale della festa dei nonni. Quindi parlavamo di questo terribile attentato in Nigeria da parte degli integralisti islamici di Boko Haram, ancora più tremendo perché in questo attentato in cui sono morte 14 persone sono state usate delle bambine kamikaze, quindi con cinture e giubbotti pieni di esplosivo. L'attentato è avvenuto vicino a una moschea nella città di Maiduguri e i terroristi hanno atteso la fine della preghiera della sera per far deflagrare l'esplosivo, praticamente per far saltare in aria queste bambine. E Maiduguri è la capitale dello stato di Borno, che è roccaforte dei terroristi islamici di Boko Haram che sono legati a ISIS. Ne parliamo con Roberto Bongiorni, inviato speciale del Sole 24 Ore e anche conoscitore di questi movimenti, in particolare Boko Haram. Ciao Roberto, buonasera. Buonasera a tutti. Senti Roberto, innanzitutto si pensa con orrore ai rapimenti vari, soprattutto quelli di un anno fa, mi sembra di almeno 230-240 ragazze da parte di Boko Haram, e ho letto che sempre più spesso vengono utilizzate ragazze e bambine in questo modo. Eh sì, Boko Haram ha compreso che per seminare il terrore usare le donne che si ricoprono con il velo islamico, perché dal nord-est della Nigeria è stato molto islamico, e soprattutto le bambine è un'arma decisamente più efficace per insinuarsi nelle maglie del sistema di sicurezza siriano. Il problema è che queste bambine, 5, si parla della la più giovane 9 anni e la più grande 14, non sono un episodio isolato, anzi è una lunga scia, una triste scia, una sconcertante scia di bambine utilizzate da Boko Haram per compiere attentati kamikaze. Io ricordo solo che in luglio ci fu un'altra bambina di 9 anni imbottita di esplosivo che si fece saltare in un locale notturno a Magua in Camerun, proprio da Boko Haram inviato, ma ce ne furono anche 3 teenager il 24 giugno a Gujaba e anche il 22 febbraio addirittura una ragazzina di 7 anni si fece esplodere. Ma la scia è molto lunga, hanno iniziato a utilizzare nel 2014 e hanno capito che è più facile. Per quanto concerne invece i rapimenti, se quello dell'anno scorso fece il giro del mondo perché furono più di 230 le ragazze sequestrate da Boko Haram, di cui non si ha ancora notizia, si pensa che comunque vengano utilizzate per fini come schiave sessuali per i guerrieri di Boko Haram, però ogni settimana, con cadenza quasi settimanale, vengono rapite in diverse zone della Nigeria delle ragazze, studentesse, ma anche bambini. Insomma, è un problema molto grave che si fa fatica a risolvere. A proposito di fatica a risolvere, io leggevo che la BBC ha scritto sul suo sito che questo attentato avviene nel momento in cui l'esercito nigeriano sta vincendo la guerra contro Boko Haram. È troppo ottimistica questa affermazione? Allora, la vedo un po' ottimistica, nel senso che quando Boko Haram ha iniziato a sferrare la sua offensiva 6 anni fa, nel 2009, insomma, ci sono stati 17-18 mila morti. Il precedente presidente Jonathan Goodluck è riuscito a fare poco niente. Adesso il nuovo presidente Muhammadu Buhari ha fatto della guerra a Boko Haram la sua priorità. È vero che a Maiduguri hanno spostato le forze d'esercito, hanno un po' espulso il movimento, ma è un movimento estremamente duttile, difficile da controllare, che si insinua, che si nasconde. Io non credo che sarà immediata la fine di Boko Haram, ci vorrà una operazione più estesa in cui io credo che anche la comunità internazionale, gli stati dell'Europa debbano essere coinvolti per fornire know-how e un aiuto, anche un supporto logistico alla Nigeria per cercare di uscire da questo tunnel, da questa guerra che, io ricordo, nel 2014 metà di tutte le vittime dei conflitti in Africa, e nel 2014 i conflitti in Africa erano molti, dalla centroafricana alla Somalia, passando per la Libia, vengono proprio dalla Nigeria. Questo conflitto sta facendo tantissime vittime e tantissimi sfollati, anche se non se ne parla. E quindi il rischio, anche egoisticamente, no? Qualcuno pensasse poi questi sfollati arriverebbero anche da noi, quindi non aspettare proprio l'ultimo momento quando le cose non sono più controllabili, soprattutto per i nigeriani, ma anche poi per gli altri. Grazie Roberto, buongiorno. Ciao. Grazie Roberto. A voi. Ciao, buona serata. Viabilità. Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. A proposito delle bambine kamikaze in Nigeria, Marco sulla pagina Facebook di Effetto Notte scrive: orrore intollerabile, ISIS e Boko Haram creatori di sofferenza in nome di Dio, nel loro modo travisato. Insomma, tra poco affronteremo invece la vicenda, un nuovo sviluppo insomma del caso Pipitone, ma vi ricordo prima di tutto le notizie più importanti della giornata. Le riforme che vanno avanti tra le polemiche, insulti, gesti osceni, avete sentito, abbiamo sentito gli audio, il presidente Grasso che ha detto l'arbitro sono io, e poi procederà domani, cioè da lunedì, di nuovo la riforma del Senato. Volkswagen e Stati Uniti allargano l'indagine ad altri marchi, ci sono anche BMW, Chrysler, GM, Land Rover e Mercedes. Poi ne abbiamo appena parlato di questa strage in Nigeria con 5 bambine fatte esplodere, poi Mosca che fa sapere abbiamo colpito l'ISIS, intanto gli Stati Uniti valutano la protezione dei ribelli antisiriani. E ancora sciopero oggi a Roma, giornata nera, traffico in tilt. E per chiudere rientra l'allerta maltempo in Sardegna, poi parleremo del resto dell'Italia per il meteo. invece ritorniamo a parlare del caso di Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo in Sicilia 11 anni fa, nel 2004, a 4 anni. Ne parliamo con Giacomo Di Girolamo, giornalista che si è occupato del caso. Buonasera Giacomo. Buonasera. Nel processo d'appello, questa è la notizia di oggi, è stata assolta, quindi assolta anche nel processo d'appello la sorellastra di Denise Pipitone, Jessica Pulizzi, che era accusata di sequestro di persona. Allora aveva 17 anni, oggi ne ha 26. E la procuratrice generale Rosalba Scaduto aveva chiesto per lei 15 anni, invece è stata assolta per insufficienza di prove. In aula c'era anche la madre di Denise, Piera Maggio, che da anni lancia appelli, che la cerca disperatamente, che ha detto non c'è giustizia e comunque noi continueremo a cercarla. Giacomo Di Girolamo, rischia anche questa vicenda di rimanere senza un colpevole? Sì, di fatto lo è, perché diciamo, casi alla mano, quando una bambina scompare dopo 11 anni, insomma, a parte quei due o tre casi straordinari, insomma, che poi diventano oggetto anche di letteratura, è veramente difficile non solo trovare la ormai ex bambina, ma anche avere dei colpevoli. Quello di Denise Pipitone è stato un caso complicato sin dall'inizio. Era un giovedì del 2004, il primo settembre, la bambina giocava davanti all'uscio di casa con la nonna entra un attimo, era in via La Bruna a Mazara, giorno di mercato, quando la nonna esce per chiamare la piccola, era ora di pranzo, di Denise non c'è più traccia. Cominciano a cercarla in giro, ovviamente, l'ansia, l'apprensione, dopo qualche ora si fa la denuncia ai carabinieri e Mazara viene messa a soqquadro, partono le indagini, la bambina è effettivamente scomparsa e lì forse si fa l'errore che pesa ancora oggi sulla vicenda di Denise Pipitone. Il giorno dopo la scomparsa della bambina parla l'allora procuratore della Repubblica di Marsala, Silvio Sciuto, e dice: Denise è viva, sappiamo dove, non può essere lontana. Insomma, dà un segnale di sicurezza a tutti. Ed ecco, effettivamente la procura di Marsala comincia a intercettare pressoché tutti, i parenti, gli amici, ma di Denise non c'è traccia. Partono missioni alla ricerca pure fino in Sicilia orientale, a Ragusa, e le indagini si complicano mese dopo mese fino a prendere una deriva tutta particolare. Davvero in questi anni io da cronista ho visto di tutto intorno alla figura scomparsa di Denise Pipitone, le veggenti che hanno detto, insomma, dove poteva essere. Sì, immagini video di Denise, però sì, alla fine segnalazioni, sì. Giacomo, si arriva a mettere sotto accusa questa sorellastra di Denise, 17 anni, perché la madre di Denise, Piera Maggio, con il padre di questa ragazza di 17 anni aveva avuto Denise, e quindi si pensava che lei avesse in odio la madre di Denise e Denise stessa, no? Perché suo padre aveva avuto una storia, sì, con Piera Maggio. Un'intercettazione del 2004 in commissariato dove a un certo punto Jessica parla con l'ex fidanzato e parla di Denise Pipitone facendo riferimento, insomma, dove potesse essere, insomma. E là, su questo frammento di intercettazione, le indagini si concludono e nel 2010, dopo tanto tempo, comincia il processo, un processo però con prove molto deboli sin dall'inizio e che è finito con l'assoluzione per insufficienza delle prove sia in primo che in secondo grado, perché effettivamente non c'è un appiglio tale da giustificare la condanna per la sorellastra, per Jessica, la sorellastra di Denise Pipitone. Da dire però che c'è un'altra inchiesta su Denise Pipitone e sulla scomparsa, che fa riferimento a un'altra intercettazione che è emersa proprio da questo processo. È un'intercettazione molto contestata, dobbiamo dire, anche questa sarà oggetto di perizie e controperizie. In questa intercettazione parla Jessica Pulizzi, che dice alla sorella Alice: quando eravamo a casa è stata mamma a uccidere Denise, insomma, faccio una traduzione chiaramente in italiano. Sì, dal siciliano, e quindi qua ci saranno nuovi sviluppi, Giacomo Di Girolamo. Ci potrebbero essere nuovi sviluppi da qua, la rabbia anche della mamma di Denise, che sostiene per certo che è stata la sua figliastra, chiamola così, per rancori. Questo rancore a rapire la bambina e ad ucciderla. Speriamo che prima o poi si possa arrivare, anche se con poche speranze, al colpevole. Intanto grazie di questa ricostruzione, Giacomo Di Girolamo. Grazie. Ciao. A voi, buona serata. Buona serata. Europa 24 notte. Si chiude questa settimana a Catania il viaggio di Radio 24 sulle rotte dei migranti. Lo facciamo in Sicilia con l'Euroreportage che andrà in onda domani. Racconteremo come l'isola ha affrontato l'ultima estate di sbarchi, la prima estate in cui è stata operativa proprio a Catania lo European Regional Task Force, che ha riunito le diverse agenzie comunitarie impegnate sul fronte immigrazione. Di questo abbiamo parlato con l'eurodeputato catanese Giovanni Lavia del Partito Popolare, che ci racconta anche gli esiti della visita che una delegazione del Parlamento Europeo ha fatto a fine luglio in Sicilia per valutare l'utilizzo dei fondi europei per le politiche di immigrazione e la creazione dei cosiddetti hotspots. Sentiamo Lavia al microfono di Sergio Nava. La cosa più importante è stata vedere la reazione dei colleghi che venivano soprattutto dai paesi del nord rispetto a temi ai quali noi ormai ci siamo quasi giornalmente abituati. Abbiamo visto la struttura di Pozzallo, dove tutto sembrava perfettamente in ordine, era stato appena effettuato uno sbarco, abbiamo avuto per diverse ore la possibilità di parlare con i migranti, di vedere qual era stata la loro esperienza, come erano arrivati sino alla costa della Sicilia e soprattutto di verificare quelle che erano state le grandi pressioni morali, psicologiche, ma soprattutto fisiche che avevano subito in Libia prima di essere imbarcati. Abbiamo sentito del loro viaggio e quando erano arrivati di fatto parlavano dell'arrivo in un Eden, cioè in un posto nel quale per loro era già la terra promessa, era quella alla quale, il luogo al quale sarebbero poi partiti per il loro viaggio europeo. Nessuno di loro voleva rimanere qua, era solo una tappa intermedia in un percorso estremamente lungo. Dall'altro lato poi siamo andati al CARA di Mineo. Il CARA di Mineo, grandissima struttura, è evidente che manifesta i problemi legati anche al gigantismo, perché è una struttura nella quale c'è tanta gente, ma soprattutto sta troppo a lungo. Abbiamo parlato con migranti che sono lì per le procedure del riconoscimento del diritto all'asilo da più di un anno, e questo evidentemente non è possibile, non è accettabile. Le strutture sono adeguate a quelle che sono le gestioni di una situazione di emergenza. Da parte dell'Europa c'è spesso un atteggiamento di diffidenza verso l'Italia. Solo la settimana scorsa ci è stato rimproverato di non registrare abbastanza migranti. Ha visto lo stesso livello di diffidenza tra i suoi colleghi e alla fine della visita li ha visti cambiare nella percezione? Certo che li ho visti cambiare, perché sono arrivati qua in parte prevenuti. Volevano tutti che si registrassero le impronte digitali, ma quando hanno visto, parlando con i migranti, quali sono le loro difficoltà, hanno capito che Dublino andava superata, perché non puoi violentare una persona che ha già subito grandi violenze lungo il percorso e che non vuole in alcun modo essere registrata, perché magari ha un parente, un cugino, uno zio o un congiunto ancora più stretto, cioè una madre che voleva andare a raggiungere un figlio e dovrebbe essere bloccata qui per un anno, mentre invece c'ha un altro interesse, un'altra destinazione. Allora dobbiamo superare e dobbiamo trovare anche meccanismi redistributivi interni. Dopo aver visto quella struttura, ho visto tanti colleghi che hanno detto: beh, questo non è più un problema nazionale, così come con Dublino vorremmo che fosse, ma è un problema europeo e l'Europa lo deve affrontare. E quello che è successo nelle ultime settimane lo dimostra. E un'ultima cosa riguarda la Regional Task Force europea guidata da Frontex, operativa da pochi mesi qui a Catania, una struttura ancora abbastanza piccola. Va sviluppata, va bene così. Il Parlamento europeo, e in particolare i lavori che facemmo nella Commissione Libe, ci portarono a chiedere l'istituzione di una sede dell'agenzia al centro del Mediterraneo 2 anni e mezzo, 3 anni fa. Abbiamo una presenza che va sviluppata in rapporto a quelle che sono le evoluzioni dei processi migratori. Europa 24 notte. Collaborazione con Euronet Plus. È tempo di sapere che tempo fa con il nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo, portatore sano di sole, ma non so quanto sole potrei portare, caro Paolo. Ma guarda, ti dirò che invece qualche buona notizia ce l'ho. Cominciamo dalla Sardegna, dove il tempo fortunatamente è migliorato e nei prossimi giorni rimarrà bello, ma in tutto il centro-sud durante il weekend torneranno ampie schiarite, solo domani qualche residuo piovacco nel sud peninsulare. Invece weekend molto variabile al nord, sta piovendo in maniera abbastanza diffusa, domenica al nord arriveranno anche dei temporali, ma chiudiamo con veramente una buona notizia: da martedì prossimo il tempo sembra rimettersi al bello e tra l'altro anche con temperature in aumento. Siamo verso i 40-45 gradi? Ecco, magari non proprio, diciamo, però si starà benino, dai. Quindi insomma c'è una tregua, non siamo proprio così completamente ormai affossati nell'autunno, vuoi dirci questo? No, ti garantisco che ottobre non sarà così malvagio. Grazie Paolo Corazzon, buon tempo. Grazie. A te comunque sia. Buon tempo a tutti. Ciao Paolo, ci sentiamo alle 22.